in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi abbiamo spostato le lancette in avanti, abbiamo perso un'ora di sonno, però insomma oggi stasera avremo queste giornate lunghe, bellissime, primaverili. Oggi i giornali sono, ma direi anche loro, primaverili, nel senso che hanno ognuno la sua fioritura di notizie, ognuno un po' diversa, no? È una di quelle giornate, una di quelle domeniche in cui ogni giornale un po' ha scelto un'apertura diversa. Allora cominciamo dal Corriere della Sera, che titola La corsa alle aziende italiane. Il riferimento è al fatto che ci sono molti investitori stranieri pronti a investire o che l'hanno già fatto, e infatti scrive il Corriere della Sera: i prezzi convenienti spingono gli investitori esteri, ci sarebbero per esempio 90 miliardi USA. Italia terra di conquista, riassume il Corriere della Sera, non dei barbari ma dei più graditi investitori esteri. I fondi che hanno investito di più sono i fondi americani, ricordo, ma perché ne abbiamo scritto recentemente, l'investimento di uno dei più grandi fondi di private equity americani, Blackstone in Versace, ben 210 milioni di euro in un botto solo. E poi la Cina, naturalmente, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con l'ingresso nel capitale di Enel e Eni, e tutti gli investitori arabi, ma insomma ce ne sono veramente tanti. E infatti Stefano Righi scrive un articolo che ha richiamato in prima pagina e poi prosegue a pagina 25. Al Banco Popolare arriva un altro fondo americano, il fondo BlackRock. La foto notizia del Corriere della Sera è dedicata alla Turchia, perché oggi si vota in Turchia, ci sono le amministrative che sono naturalmente un banco di prova per il premier Erdogan, dopo tutti gli strappi che ha fatto per mantenere l'immagine di uomo forte al potere degli ultimi tempi. Sapete che ha bloccato Twitter, poi ha tentato di bloccare Facebook, tutto per bloccare le proteste e assicurare a se stesso, assicurare al suo partito che il voto sia sicuro. Ma vedremo come andrà questo voto. Il commento è di Sergio Romano: Erdogan e il voto, i sogni delusi di un nuovo impero. E poi vi segnalo una lettera di Mario Monti, l'ex premier Mario Monti, al Corriere della Sera, una proposta a Renzi per cambiare il Senato, perché sapete che domani è il giorno in cui probabilmente si deciderà appunto il destino del Senato. E allora la Repubblica titola: Grasso non abolite il Senato, perché a pagina 2 e a pagina 3 della Repubblica c'è una lunghissima intervista di Liana Milella appunto al presidente del Senato Pietro Grasso, che invita a non, che contesta la riforma della proposta da Renzi e dice: resti un'assemblea di eletti, non dia la fiducia ma si occupi di leggi costituzionali ed etiche. Quindi quella proposta di sostanzialmente svuotare il Senato di ogni capacità legislativa viene bocciata dal suo attuale presidente Pietro Grasso. La fotonotizia che la Repubblica sceglie è invece quella, l'avete sentito già da ieri sera, della notizia della condanna all'ex fidanzato di Lucia Annibali, che l'ha sfigurata con l'acido. È stata chiesta il massimo della pena che si poteva chiedere, cioè 20 anni, e naturalmente giustamente la Repubblica la definisce una condanna esemplare. Ci sono i servizi a pagina 12 e 13, e poi un commento di Michela Marzano, che è senatrice del PD e anche filosofa, autrice di molti libri sui temi, lei è una filosofa morale, ma sui temi che riguardano le donne. Vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore, che è invece dedicata a quello che è stato detto ieri a Bari, dove è in corso un convegno del Centro Studi di Confindustria, e il titolo è: Squinzia Visco, le imprese sono per il cambiamento. Perché anche qui c'è stata questa polemica nei giorni scorsi con il governatore della Banca d'Italia, che dice tutto sommato anche le imprese hanno le loro colpe come i sindacati, tutta la questione di nuovo dei lacci e lacciuoli. E appunto Squinzi, il presidente di Confindustria, ha risposto: in questi 8 lunghissimi anni di crisi le aziende hanno tenuto insieme il paese. Al convegno di Bari del Centro Studi di Confindustria, Giorgio Squinzi e Ignazio Visco: le imprese sono per il cambiamento. Al governatore di Banca Italia, che chiede alle aziende di innovare e investire, il presidente di Confindustria replica: le imprese lo stanno già facendo. E aggiunge: negli 8 anni lunghissimi della crisi, le imprese innovatrici e globali hanno tenuto insieme il paese. E c'è infatti un'analisi poi che trovate a pagina 3 di Carmine Fotina, con la curva dell'innovazione, per vedere quanta spesa in ricerca e sviluppo le imprese hanno continuato a fare nonostante appunto la crisi, che ha costretto moltissime a tagliare tantissime spese spese considerate non necessarie per l'ordinaria amministrazione, come la ricerca, che però è sempre qualcosa che ha una visione di medio-lungo termine, quindi chi è coraggioso non smette di investire anche quando appunto il quotidiano imporrebbe tagli alla spesa in ricerca e sviluppo. Come sempre alla domenica la lettera all'investitore, al risparmiatore di Vittorio Carlini, che oggi si dedica a Finmeccanica, il titolo per riassumere l'analisi dettagliatissima che ogni domenica Vittorio Carlini fa di una singola azienda quotata è Finmeccanica gioca le sue carte nel business di aerospazio e difesa, e lo trovate a pagina 21. Vi segnalo anche un articolo di Rita Faticuso, che è la corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, la sfida di Xi Jinping nell'arena europea, perché sapete che ci sono stati molti cambiamenti di recente nella politica monetaria cinese, ma non soltanto, e forse una vera e propria offensiva diplomatica, politica, economica, quella di Pechino nei confronti dell'Europa, che viene considerata forse addirittura un luogo più sicuro per investire che non gli Stati Uniti in questo momento dalla Cina, dove ci sono tantissimi capitali da investire. Vediamo la Stampa, come vi dicevo, oggi ognuno titola un po' per conto suo. La Stampa sceglie il tema della pubblica amministrazione, dipendenti pubblici under 35 solo 1 su 10, si apre il caso della staffetta generazionale, l'avete sentito anche nel GR, Mariana Madia, la ministra per la pubblica amministrazione, appunto, che ha proposto questa idea di prepensionare per assumere i giovani. Naturalmente subito qualcuno le ha risposto che i prepensionamenti vanno per esempio finanziati, che quindi i prepensionamenti così non sono una specie di bacchetta magica, e poi soprattutto c'è un tema anche un pochino più serio, che è quello che non necessariamente quando uno ha più di 50 anni ha meno da offrire che non un giovane che ha entusiasmo ma non ha l'esperienza, e quindi questa polemica. Il commento di Walter Passerini, l'autobus strapieno. La fotonotizia scelta dalla Stampa è ancora diversa da quella degli altri e riguarda il mondiale in Giappone sul ghiaccio, magie sul ghiaccio, 2 medaglie mondiali, e c'è una foto dell'esibizione dei nostri 2 pattinatori Anna Capellini e Luca Lanotte, che avevano chuso alle Olimpiadi Sochi al 6° posto e invece hanno vinto l'oro in Giappone, e poi c'è naturalmente anche il bronzo di Carolina Kostner. La Stampa richiama in prima pagina le prime nozze gay a Londra, la nuova legge è entrata in vigore, e scrive la Stampa, il premier Cameron si è congratulato per questa che è stata definita una svolta epocale. Il Messaggero, anche in questo caso un po' il tema è quello degli statali, ma con un focus sulle pensioni. Scontro nel governo sull'uscita anticipata solo per i dipendenti pubblici, discriminati gli esodati, così dicono i sindacati, e Visco, viene ripetuto questo appello del governatore della Banca d'Italia alle imprese, e anche la replica di Squinzi, che oltre a dire apprezziamo Renzi ha anche ribadito noi siamo sempre stati i primi a innovare. C'è un intervento di Romano Prodi, come ogni domenica, sul Messaggero. La lunga marcia dello yuan insidia l'euro, e qui torniamo appunto al tema del cambio tra, sapete che il renminbi e la moneta cinese è legata al dollaro, adesso è stata leggermente sganciata, però secondo appunto Romano Prodi, che da sempre si occupa, è stato uno dei papà dell'euro, quindi chiaramente questo è un tema che a lui è molto caro, si occupa di questi temi, quindi la lunga marcia dello yuan insidia l'euro. Il titolo di Libero, arrivano i nuovi mutui, anche qui vedete un titolo ancora diverso. Le banche ricominciano a dare prestiti ai tassi di prima della crisi, sia per acquisti che per ristrutturazioni. Questa è sicuramente una buona notizia. E poi ci sono prodotti ad hoc per giovani e precari. Ecco i più interessanti, questa inchiesta di Tobia De Stefano che trovate a pagina 2 e 3 di Libero. Il commento di Maurizio Del Pietro è su questa polemica tra le ministre Madia e Giannini. Geni al ministero, il governo rischia di prepensionarsi. Non c'è fotonotizia, ma un disegno di Berlusconi seduto su un divano, accanto a lui c'è un gatto e appena davanti al divano c'è un cane, perché sapete che ieri Berlusconi, il titolo è Silvio Lanci cani e gatti della libertà, perché ieri Berlusconi ha invitato gli italiani a adottare i 150.000 cani e gatti che sono nei canili, e molti l'hanno visto come appunto un tentativo, una mossa elettorale anche, e lo dico Lo dice anche il giornale, quindi non lo dico soltanto io, il giornale, appunto, vi leggo il titolo del giornale: Il voto di cani e gatti. Questo è il titolo principale del giornale. Berlusconi lancia la campagna animalista: ci sono 150.000 bestiole abbandonate, convinciamo gli italiani ad adottarle. E avverte Renzi: il patto è da rivedere. E c'è su questo tema dell'appello animalista di Berlusconi il commento di Vittorio Feltri: poco da ridere, è cosa seria. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali che, come dicevamo oggi, sono un po' tutte diverse. E allora, dopo il giornale che dedica il titolo di apertura all'appello di Berlusconi di ieri, il titolo è Il voto di cani e gatti. Berlusconi ha chiesto agli italiani di adottare i 150.000 cani e gatti che sono femmine e canili in attesa appunto di adozione. Il titolo dell'Unità: Senato, lo stop di Grasso. Abbiamo visto su Repubblica l'intervista al presidente del Senato Pietro Grasso che è contrario all'abolizione della Camera Alta, appunto, o meglio, è contrario al fatto che alla Camera Alta non restino più funzioni legislative, ma solo magari di consultazione, o comunque che sia un organo, tutto da vedere in che cosa verrà trasformato. Ecco, allora l'Unità si concentra sullo stesso tema: almeno un centinaio di senatori eletti con diritto di voto sul bilancio e sui temi centrali per lo Stato. Questa è la proposta di Grasso, è il contropiano, appunto, del presidente di Palazzo Madama. E come ricordavamo, domani è un po' il giorno importante perché il Consiglio dei Ministri vara questa riforma. La fotonotizia è dedicata, come su altri giornali, alla condanna dell'ex di Lucia, che aveva sfigurato questa ragazza con l'acido, e gli è stato dato il massimo della pena, cioè il massimo della pena possibile, è stato chiesto il massimo della pena possibile, cioè 20 anni. E poi il manifesto: abbiamo visto la notizia richiamata sulla prima pagina della stampa del primo matrimonio gay a Londra, dopo che è entrata in vigore la legge che permette i matrimoni gay. E la fotonotizia, il titolo del manifesto, che sapete è sempre molto immaginifico, è C'è chi dice sì. E la foto è appunto di questi primi due uomini gay che hanno approfittato del Marriage Act, e che è un successo, dice il manifesto, del premier conservatore David Cameron, che così conquista i progressisti nonostante i tagli sociali. In Italia, ricorda il manifesto, Renzi resta a guardare: niente matrimoni, ma neanche unioni civili. La prima pagina della Padania intitola è Gazebum. Ci sono alcune foto dei gazebo allestiti ieri. C'è infatti questa campagna della Lega per alcuni referendum. Ieri ci sono molti cittadini che hanno votato, oggi si replica. E poi c'è un intervento al segretario della Lega, un'intervista al segretario della Lega Salvini, che ribadisce l'intenzione di allearsi con Marine Le Pen. Come vedremo dalle pagine interne dei giornali, oggi infatti c'è il secondo turno, tra l'altro, delle amministrative in Francia, quelle dove 2 settimane fa ha trionfato il partito di estrema destra di Marine Le Pen, e vedremo oggi come andranno i ballottaggi. La prima pagina del Fatto Quotidiano: le spine del giovane Renzi, case, vini e famiglie. Sapete la vicenda della casa a Firenze, che è stata data a Renzi da un imprenditore fiorentino, e non si è ancora ben capito se è del tutto gratis o no. Il Fatto insiste: un altro alloggio imbarazza il premier, glielo affittò a prezzi modici un erede Frescobaldi, una delle più importanti famiglie fiorentine. L'azienda vinicola era stata protagonista di un evento finanziato con 140.000 euro dalla provincia guidata da Renzi. Sapete che Renzi, prima di fare il sindaco di Firenze, in realtà il suo primo importante incarico era stato presidente della provincia di Firenze. Intanto la Ducati Energia del padre della ministra Guidi ha subito una verifica per una presunta invasione in Romania. Insomma, il Fatto Quotidiano sta molto addosso al governo Renzi e cerca di usare, forse, insomma, merito a loro, gli stessi criteri, la stessa intransigenza che ha usato per gli altri governi. La prima pagina dell'Avvenire: l'Italia che fatica a costruire. Questo è invece un titolo, appunto, come dicevamo, ancora diverso, che si rifà a un dossier della Caritas che fotografa le emergenze vecchie e nuove del nostro paese e l'impegno di tanti che si piegano sulle ferite dell'uomo. Vi segnalo poi la prima pagina del Secolo XIX, che è il principale quotidiano della Liguria, perché qui c'è un'inchiesta che ovviamente non troviamo altrove, che è sui treni liguri. Ricorderete sicuramente la vicenda accaduta circa un mese e mezzo fa del treno che si è fermato e poi ha bloccato il collegamento tra Genova e Ventimiglia, e quindi con la Francia, perché c'era stata una frana. Ecco, questa inchiesta spiega che sui treni liguri incombe il pericolo di 2.111 frane, un punto a rischio ogni 236 metri. metri, e Andorra, dove era successo questo incidente di cui vi dicevo, non era nemmeno nelle zone rosse. E visto che arriva l'estate e quella linea sarà praticamente particolarmente trafficata, appunto, mi sembrava un'inchiesta interessante da segnalare. Speriamo che qualcuno, insomma, si muova finalmente, anche se il tema del disastro idrogeologico dell'Italia è naturalmente amplissimo, non riguarda solo la Liguria e non riguarda soltanto i rischi che questo porta alle linee ferroviarie, soprattutto quando piove per molti giorni di seguito. Vi segnalo il titolo della Gazzetta: ieri c'è stato l'anticipo, i due anticipi, e uno era Milan-Chievo, il Milan ha vinto 3-0, e quindi la Gazzetta titola: Milan festa cacà, e poi però lascia un dubbio ai tifosi milanisti, ma andrà via, splendida doppietta del brasiliano nel giorno della sua 300ª partita in maglia rossonera. Galliani però rivela, ha una clausola nel contratto e senza Champions potrebbe anche lasciarci, e lui però ha replicato: spero in realtà di restare. Vediamo ora, andiamo alle pagine interne dei quotidiani, e cominciamo dal Corriere della Sera. Vi segnalo a pagina 6 un tema di cui anche qui a Radio 24, per esempio, ricordo se ne è parlato con Roberto Perotti, che ha fatto uno studio su questo, sui compensi dei dipendenti della Farnesina. Ecco, la spending review riguarderà anche loro, se ne sta occupando il ministro Mogherini. Ambasciate e istituti di cultura, ecco la scure della Farnesina, da Santo Domingo alla Mauritania, il piano appunto del ministro. Ci sarebbero 12 milioni di risparmi annui del ministro degli esteri con il taglio di ambasciate, consolati e istituto di cultura. 8,5 di questi milioni verrebbero dai tagli al personale. E dicevamo delle amministrative, il turno di ballottaggio, il secondo turno che c'è oggi in Francia. Alla pagina 17 del Corriere, un'intervista di Stefano Montefiori a Jean-François Copé, 49 anni, che è il successore di Nicolas Sarkozy alla guida del partito di destra UMP, il principale partito di destra conservatore della Francia. Il titolo dell'intervista è: mai con Le Pen, noi siamo la destra responsabile. Oggi quindi c'è questo secondo turno e Copé dice: noi non ci alleiamo, non facciamo facili alleanze con i socialisti né con il fronte di Marine Le Pen. Il mio predecessore Sarkozy, aspetto che torni a parlare, adesso è popolare perché tace. E poi vi segnalo dalla pagina 27, il Corriere ha anticipato un po' un tema che vedrete sicuramente anche nei giorni prossimi sui quotidiani, perché il 4 aprile si apre al Victoria and Albert Museum, che è forse il più grande museo al mondo dedicato al costume, alla storia del costume, una mostra che celebra 70 anni di stile italiano. È una mostra che non si è mai vista di queste proporzioni e con una per quel che ne sappiamo, perché in realtà è questa di Gianluigi Paracchini è un'anticipazione, una mostra spettacolare, e appunto, come spesso accade, è all'estero che si celebrano prima che noi ci riusciamo da soli. Il titolo della pagina, con anche molte foto d'epoca, è: il giro del mondo della moda italiana. Victoria and Albert Museum di Londra celebra in una mostra 70 anni di stile. Passiamo, per quanto riguarda ancora le elezioni francesi, per capire un po', per intuire, poi lo sapremo stasera o domani come andrà veramente il voto, un articolo di Anaïs Ginori, corrispondente della Repubblica, pagina 17 della Repubblica, corrispondente da Parigi. I bistrot decidono il voto, la battaglia di Parigi si vince a Montparnasse. Oggi, perché sapete che, visto che sono appunto elezioni amministrative, c'è anche questa importante sfida per il nuovo sindaco della capitale, e tra l'altro a sfidarsi sono due donne: Anne Hidalgo, la candidata per il Partito Socialista, e Cochuco Morizet, candidata dell'UMP, cioè il partito di Copé, il leader del partito che Montefiore intervistava sul Corriere. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore vi segnalo Nova, che è il settimanale che esce ogni domenica ed è dedicato ai farmaci. Qui è dedicato all'innovazione. L'articolo di apertura però è di Agnese Codignola, che è una giornalista scientifica, la conoscete anche voi ascoltatori di Radio 24. Il titolo della copertina di Nova è: tutto il potere all'immunoterapia. Quello dei vaccini è un settore in espansione, per Novartis però non è più strategico. Novartis è una delle aziende, le cosiddette aziende di Big Pharma, cioè una delle grandi aziende farmaceutiche del mondo, e quindi si chiede Agnese che fine farà il centro di Siena. Siena, infatti, Novartis aveva un grande centro di ricerca. C'è un intervento di Luca De Biase: l'innovazione che conta, non soltanto app, le tecnologie che che servono all'umanità sono altre, appunto le app, certo, quanto ne parliamo delle app per tutti i nostri smartphone e tablet, però poi c'è la ricerca, diciamo, vecchio stile, che è ancora quella che può salvare tante vite. Dalla copertina di Imprese e Territori del Sole 24 Ore, un altro tema che si è un po' perso, ma che naturalmente non perché non se ne parla, è scomparso, ed è quello dell'Ilva di Taranto. Paolo Bricco ci racconta qual è il piano presentato per il governo per questa grande impresa siderurgica, che però ha avuto tanti problemi di inquinamento ambientale, problemi legali della famiglia che l'aveva fondata, la famiglia Guida, ed è stata commissariata. Il commissario Biondi ha incontrato il ministro Guidi, tra 2 settimane il documento sarà completato. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte della rassegna stampa di Radio 24. Eravamo alle pagine interne e vi segnalo a pagina 7 della Stampa un'intervista all'ex ministro Barca. Ve la segnalo per 2 motivi. Primo, perché parla un po' di noi, perché parla di noi nel senso di Radio 24 e della Zanzara in particolare. Ricorderete quasi certamente la finta telefonata a Fabrizio Barca di metà febbraio, mandata in onda la Zanzara, che così tante polemiche suscitò. Qui Fabrizio Barca torna su quella telefonata, ma soprattutto è un'intervista dove lui, che è stato escluso dal governo Renzi, ha delle parole veramente di sostegno che sono abbastanza inusuali per, diciamo, i rottamati del PD, e quindi l'ho trovato molto signorile, molto saggio anche. Quindi vi leggo soprattutto la risposta sul famoso intervento, la finta intervista di, ricorderete, no? Fabrizio Barca credeva di parlare con Nichi Vendola, in realtà parlava con la Zanzara, e disse delle cose che poi gli costarono parecchio nei giorni successivi, perché soprattutto aveva espresso dei giudizi non proprio positivi nei confronti di Renzi, che in quel momento non era ancora sicuro che tipo di governo potesse fare. Allora, il titolo dell'intervista è: Barca al nuovo governo, dategli 6 mesi, i sindacati non hanno innovato. La domanda di Paolo Petruccia è: a metà febbraio, in uno scherzo telefonico del programma La Zanzara, lei, credendo di parlare con Vendola, ha espresso giudizi critici sulle prime mosse di Renzi. Qual è il suo giudizio oggi? Risposta: per giudicare qualunque governo non bisogna avere fretta, ci vogliono almeno 6 mesi, di meno è ridicolo. Rispetto a quella telefonata, se fossi una terza persona e la sentissi per l'ennesima volta e mi lasci dire superassi il rigetto, ne dedurrei che la persona che parla è un pezzo di quei gruppi dirigenti minoritari che teme che questa scossa non ce la possa fare. Insomma, un timore espresso con l'emozione. E quanto diverse queste parole, per esempio, da ex ministri come Fassina, che del PD sempre, che sicuramente remano contro questo governo, come hanno notato tantissimi osservatori politici in questi giorni, per non parlare di Cuperlo, un altro che un giorno sì un giorno no rilascia interviste in cui sostanzialmente dice: Renzi non ce la farà mai, correggeremo noi la riforma del lavoro perché così non va, eccetera eccetera eccetera. Quindi per me una boccata di primavera leggere così un'intervista, appunto, di uno che dice, fa questa affermazione di estremo buonsenso: date almeno 6 mesi a un governo per poter essere giudicato. Vi segnalo la Stampa, prima di passare le pagine della cultura, che oggi sono ricchissime e che come sempre avremo il tempo soltanto così un po' di sorvolare, vi segnalo dalla Stampa un dossier compilato da Paolo Baroni, molto interessante, anche qui un vero reality check, perché si parla tanto della crisi tra Russia e Ucraina, la telefonata tra Putin e Obama, ma di che cosa stiamo parlando veramente? Ecco, per esempio, le sanzioni a Mosca sono una fattura da 30 miliardi, a tanto ammonta il nostro interscambio con la Russia, uno dei pochi mercati in crescita per il Made in Italy, in caso di blocco soffrirebbero interi comparti, come mobile, pelle e meccanica, e distretti industriali del centro-nord, un'intera pagina della Stampa. Dalla Stampa un'ultima cosa veramente curiosa, un reportage di Nicola Busca dalla Nord Corea, perché Kim Jong-un, il dittatore coreano, si è fatto costruire una specie di incredibile parco resort con hotel a 5 stelle e anche la possibilità di sciare. È un comprensorio sciistico in stile assolutamente occidentale, a uso e consumo unico del dittatore e della sua stretta cerchia. Ci sono foto che sono appunto tra il comico e il grottesco, perché naturalmente sappiamo che la Corea del Nord è uno dei paesi più poveri al mondo, dove a questi sfarzi pazzeschi del regime corrispondono poi tassi di mortalità infantile altissima e povertà, e per non parlare della pena di morte. Pare che appunto la Corea, lo sentivamo nei giorni scorsi proprio qui a Radio 24 nel rapporto di Amnesty International, dopo la Cina sia uno dei paesi che applica con più facilità la pena di morte. Ma passiamo ai supplementi della domenica e cominciamo naturalmente dalla domenica del Sole 24 Ore, in particolare dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Gli Impassibili. Come sapete, si parte da una citazione: la voce della passione è migliore di quella della ragione, poiché gli impassibili non sanno cambiare la storia. Certo, sulle facce di bronzo non scorrono le lacrime, patire è degli uomini e la passione comporta tormento e persino dolore, tant'è vero che chiamiamo passione le ultime ore di Cristo. Essere impassibili non è, come spesso si crede, una dote eroica. La sensibilità che si sfrangia in mille iridescenze emotive è una grazia, feconda, creatrice, amorosa. Coglie nel segno il poeta polacco Czesław Miłosz, di cui è appunto la citazione, col distico sopracitato. La fredda razionalità produce mostri. La rigidità implacabile dei fondamentalisti non nasce da una passione autentica, ma da un'isteria. Le passioni al plurale possono essere vizi e quindi sono sterili. La vera passione diventa invece un appassionarsi, si fa compassionevole, compatisce e alla fine rigenera la vita propria e altrui. Sì, altra piccola citazione, questa di Chesterton, c'è una via che va dagli occhi al cuore senza passare per l'intelletto. Dalla prima pagina anche il memorandum del direttore Roberto Napoletano, che sapete fa questo viaggio in lungo e in largo per l'Italia. Questa volta è stato in una scuola di Saluzzo, invitato a parlare appunto, e parla anche in questo caso delle voci che ha ascoltato. Il titolo del memorandum è L'isolamento di Saluzzo e la voglia di riscatto dei ragazzi. In particolare racconta la storia di un imprenditore, di un giovane imprenditore nato in Calabria, che poi si è spostato, ha studiato al Politecnico di Torino e poi ha trovato lavoro appunto a Saluzzo. Naturalmente il tema è sempre quello del fatto che a volte i giovani sono costretti a muoversi perché soprattutto al sud non hanno le comunque poche possibilità che ci sono al nord, magari naturalmente sono costretti ad andare fuori dall'Italia. A pagina 3 vi segnalo un lungo articolo di Pietrangelo Buttafuoco che è un frutto di una conversazione con Eugenio Scalfari, che il 6 aprile compie 90 anni. Se la politica fosse cultura, il fondatore di Repubblica rilancia e arricchisce l'idea di un senato delle competenze. Quindi torna anche il tema, che poi di cui sicuramente parleremo domani in particolare, di come cambierà il senato, la camera alta del nostro paese, per uscire dalla quella che per molti è la trappola del bicameralismo perfetto. Vi segnalo poi da pagina 29 la recensione degli scritti di Renato Bazzoni, che è la persona che insieme a Giulia Maria Mozzoni Crespi ha creato il FAI. Settimana scorsa ci sono state le giornate di primavera del FAI, questa organizzazione, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che ha salvato così tanti monumenti italiani che sarebbero probabilmente stati destinati all'oblio, magari addirittura alla lenta distruzione. La prima pagina della lettura, sapete, la lettura del Corriere della Sera, il supplemento della domenica del Corriere della Sera è sempre compilata da un artista. Oggi è Grazia Varisco, una grafica. E poi vi segnalo dall'interno, è un'anticipazione del prossimo libro di Beppe Severnini, che insomma è un giornalista di punta del Corriere della Sera. Benedetta paura fa crescere, infatti dedicato alla paura, questo un po' anche alla paura, questo nuovo libro di Beppe Severnini, che in realtà si chiama La vita è un viaggio, e qui ci sono molti estratti e soprattutto, come spesso capita a Severnini, la sua attenzione è per i giovani, e il fatto è, tutto sommato, il libro è veramente un invito soprattutto ai giovani a non avere paura. Se avrete sentito forse la pubblicità della mostra di Klimt, è una mostra che è in corso e si è appena aperta a Milano, il Corriere della Sera ha deciso di chiedere a due personaggi molto diversi, Claudio Mencacci, uno psichiatra, e Giulio Giorello, filosofo della scienza, di andare a vederla. Klimt, la mente e il corpo oltre l'arte. Abbiamo chiesto a un neuroscienziato e a un epistemologo di vedere la mostra di Milano con gli occhi di un'altra specializzazione. E quindi lo psichiatra dice: il microscopio affascina il pittore, la biologia invade paesaggi e corpi, e invece il filosofo, l'epistemologo, dice: Eva prorompe con un sì alla vita mentre il servente è scomparso. La copertina della Domenica della Repubblica è dedicata invece a John Lennon. Trovate questa notizia anche sulla Domenica del Sole 24 Ore, perché infatti andranno all'asta a Londra degli scritti, dei disegni, delle poesie ritrovate di un giovanissimo John Lennon, e Enrico Franceschini ci racconta appunto questo patrimonio ritrovato del grandissimo cofondatore dei Beatles. dalle pagine, come sempre, alla domenica la Repubblica ha un'intervista fatta su due pagine. Oggi è a Paolo Ricca, un personaggio che forse non tutti conoscono, è un grande teologo, pastore, allievo di Karl Barth e appunto teologo. Chi non ha fede dubita di Dio, chi crede dubita di se stesso. Questo è il titolo di intervista di Antonio Gnoli, molto interessante. Vi segnalo l'ultima segnalazione, credo che ho il tempo di fare, invece dal supplemento Alias, il supplemento del Manifesto la domenica, ed è dedicato a una nuova raccolta di poesie di Tess Gallagher. Tess Gallagher è stata l'ultima moglie di Raymond Carver, per sua stessa missione di Carver lo ha salvato dal tunnel dell'alcol, ma era una poetessa oltre che curatrice dell'opera del marito, e quindi escono queste poesie, pacate poesie di quotidiana comunicazione e racconti dotati di intersezioni di punti di vista, entrambe le forme intonate al minimalismo di Raymond Carver, di cui Tess fu appunto l'ultima moglie e ancora oggi fedelissima e amorosissima curatrice dell'opera. Era l'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, grazie a Filippo Aureggi in regia che mi ha dato i tempi, cercando di tenermi nei tempi. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.